avvio la registrazione e la prima domanda è se ci racconti un po' il tuo attivismo, come l'hai visto tu da, diciamo, dall'adolescenza in poi, qual è stato il tuo approccio al consumo? Allora, penso sia necessaria una premessa. Sono la maggiore di 7 figli, quindi ho l'accudimento nel DNA, perché una volta ti facevano accudire i fratelli, non eri te l'identità, eri te nella funzione di, quindi l'accudimento è sempre stato nel mio DNA, diciamo, e questo mi ha sempre portato chiaramente a interessarmi di tante cose e soprattutto di tante persone. E vabbè, l'adolescenza, sai, è un periodo che va di più a quello che ti piace che non ai pensieri profondi. Il tutto poi è partito verso i 17-18 anni. Vabbè, l'adolescenza di adesso, non la mia adolescenza di allora. E 17-18 anni ci siamo trovati come un gruppo di persone, di ragazzi, che avevano delle idee in comune. Abbiamo raccolto l'eredità del gruppo giovani, che però a quel tempo il gruppo giovani gestiva la maccheronata e basta. Quindi siamo partiti da un aspetto ludico, e siamo subentrati come età e da lì eravamo anche affiatati come modo di pensare, come modo di vedere il mondo, e sulle disparità soprattutto sociali, su problemi etici, su così, insomma, anche politici, e da lì si è maturato all'interno di questo gruppo la coscienza di poter fare qualcosa prima di tutto nel nostro paese. Da lì è arrivata l'esperienza delle ACLI, e l'esperienza poi all'interno del Consiglio Comunale, perché dal 90 fino al 2010 noi siamo sempre stati presenti nel Consiglio Comunale come lista di minoranza. Abbiamo sempre fatto come lista di minoranza e come gruppo ACLI di quel periodo un giornalino del paese, che penso che avrai visto, ecco, dove ognuno aveva un po' il suo compito, apportava un po' a seconda di quello che, così, del suo carisma, dei suoi talenti. E avevamo di supporto Don Flavio Maurina, che su questo le sta eccezionale, sul giornalino Don Flavio è stato eccezionale, perché ci aveva messo a disposizione tutta l'attrezzatura, quindi a quei tempi c'era il ciclostile con le matrici, cioè lui comprava lui il materiale e noi lo pagavamo di volta in volta quando lo consumavamo, con sconti eccezionali, e lo mettevamo insieme qua, in questa sala qua. Uscivamo 3-4 volte all'anno, ecco. Però appunto alle spalle c'era un gruppo, all'inizio eravamo magari anche alcuni sposati, però non c'erano figli, quindi avevamo anche libertà di azione, quindi ci impegnavamo, siamo stati fra i promotori di Mandacaru, tanti di quel gruppo lì siamo stati soci fondatori di Mandacaru, quindi una certa sensibilità verso il problema del terzo mondo. Eravamo molto amici di Don Michele Balestra, di Don Francesco Moser, e quindi noi siamo andati anche in Brasile, 5 di noi siamo andati anche in Brasile a conoscere queste realtà nell'89, e poi l'autunno dell'89 abbiamo cominciato a lavorare per Mandacaru. Mandacaru è sempre stato presente fra di noi, perché comunque noi siamo soci attivi, quindi ci attiviamo, ad esempio il banchetto che facciamo qua alla Maccheronata, facciamo tutti gli anni, adesso vabbè, quest'anno non l'abbiamo fatto fisicamente, ma comunque abbiamo raccolto degli ordini e abbiamo poi distribuito casa per casa a chi aveva ordinato la merce, quindi abbiamo comunque tenuto alto l'impegno, insomma, ecco. E vabbè, dopo io avevo anche, diciamo, una componente cattolica, cristiana, quindi sono stata per tanti anni membro del Consiglio Pastorale. A 18 anni ero già nel Consiglio Pastorale, erano anni anche abbastanza nuovi per come Consiglio Pastorale, perché erano i primi, cioè era appena stato istituito questo nuovo modo di poter collaborare col sacerdote, così. E sono andata avanti fino a Don Roberto Azzolini, quindi insomma 8, 16, 24, quasi 24 anni. Anche all'interno del Consiglio Comunale, addirittura avevo le due cariche all'interno del Consiglio Comunale, però quello che mi preme dire è che c'era sempre un gruppo anche di supporto. È importantissimo, penso, per avere vitalità, per avere forza, avere sempre anche un gruppo con cui confrontarti, perché altrimenti magari da sola è facile che devi o comunque ti lasci influenzare, invece riportare, riconsiderare, rileggere insieme sicuramente è una cosa, quello che è stato insomma in quegli anni là. Dopo vabbè, insomma, tutti quanti abbiamo avuto le nostre famiglie, quindi sai, gli impegni poi sono andati ancora, abbiamo anche demandato, perché in effetti in realtà tutte le attività del gruppo giovani poi si sono spostate a quelli più giovani di noi. E tipo anche la festa in Scanupia l'avevamo fatta noi per primi, adesso è una bellissima realtà, vabbè interrotta dal Covid, però spero che ritorni. E una cosa mi premeva dire che noi facevamo tutte queste attività per finanziarci il giornalino, noi tutte le offerte che raccoglievamo erano per finanziarci il giornalino. Dopo nel 2005 che c'è stata l'amministrazione della Carmen Maffrini, loro hanno cominciato a far uscire un loro giornalino comunale. Allora noi abbiamo un po' lasciato perdere, perché non aveva senso fare dei doppioni, perché all'interno del nostro giornalino comunque c'era la parte politica e proprio dei consigli comunali, che ci facevamo dare le varie delibere, quindi ce le copiavamo, poi c'era l'espressione di tutte le associazioni e qualche argomento particolare, tipo io che curavo la pagina delle erbe, poi c'era il Lucio e il Renato Piffer, la storia di Besenello, sai, quelle cose un po' particolari. Però dopo chiaramente il giornalino del paese ha un po' raggruppato tutte queste anime, e quindi il giornalino è andato poi a scemare, perché appunto è nata un nuovo giornalino. E adesso come adesso il mio impegno è comunque all'interno, come supporto all'interno dell'amministrazione, perché faccio parte del gruppo di non sono stata eletta, però vado alle assemblee del gruppo di maggioranza e poi come Mandacaru, diciamo sul sociale, facciamo da supporto per Don Francesco Moser, per l'eredità di Don Francesco Moser su Timor Est. Infatti stiamo adesso lavorando per vedere se riusciamo trovare un qualcuno che ci possa dare le garanzie per poter continuare il supporto economico per quei paesi là, perché adesso oltretutto Timor Est è stata investita da un nuovo uragano, quindi la situazione è disperata. È chiaro che prima avevamo là una persona fisica di cui ci fidavamo al 100%, adesso dobbiamo trovare il partner da poterci dare le stesse garanzie, insomma, ecco. Ascolta, per quanto riguarda la tua attività professionale? Allora, amo il mio lavoro, sicuramente, questo lo posso dire col cuore. Mi piace proprio il lavoro che faccio. Non l'avevo scelto per amore, l'avevo scelto come ripiego, perché io pensavo di fare scienze biologiche e dopo una mia amica che aveva la farmacia mi fa: dai Cecilia, ti prometto che ci sarà lavoro anche per te, quindi se fai farmacia facciamo insieme. E chiaramente sempre la maggiore di 7, che già i miei genitori erano stati strabravi a lasciarmi studiare, prima femmina, perché anche questo nel lontano 78 aveva un 78, 78 avevo già finito il liceo, quindi stiamo parlando del 73. E non era una cosa proprio, cioè ci sono state tante persone che a mia mamma hanno detto: perché la fai studiare, che è anche una femmina che dopo si sposa. E invece mia mamma è sempre stata una persona che per la cultura veramente sarebbe andata a lavorare di notte pur di permetterci tutti di studiare, insomma, ecco. Quindi ho cominciato a far farmacia. Dopo, entrando nel mondo del lavoro, ho capito che comunque era una cosa che mi piaceva. Mi piace soprattutto l'approccio con le persone, chiaramente. Chiaro, il sapere che puoi dare una mano, il sapere che comunque hai in mano delle possibilità che possono far star meglio l'altro, insomma, ecco. E prima di tutto l'ascolto, chiaramente, prima di tutto l'ascolto, perché penso che l'ascolto sia già, non dico tre quarti, ma metà della terapia. Ecco, e dopo cercare di spiegare, di consigliare anche farmaci o rimedi i meno invasivi, però efficaci. E dopo io avevo fatto la tesi con le erbe, nel senso che ho fatto rimedi vegetali usati nella medicina popolare della Varendena, quindi avevo già un bel bagaglio, insomma, di esperienza. A quei tempi sono stata fortunata anche perché quando ho cominciato a lavorare nella farmacia di Cagliano c'era il dottor Burattoni che ci teneva tantissimo a questo tipo di terapia e quindi facevamo gli intrugli insieme, io andavo a raccogliere le piante, facevamo le tinture, ho imparato tantissimo da lui di queste cose. E dopo si è trasformato un po' nella conoscenza dell'omeopatia, i vari corsi di aggiornamento, corsi di approfondimento su questi temi. Però, insomma, le persone, poi, chi hai davanti, non è che a tutti va bene ricevere il rimedio naturale, insomma, quindi devi essere anche aperto a sentire, insomma, se il cliente ha bisogno, cliente paziente, preferisce una terapia di un tipo piuttosto che di un altro, capito? Però, insomma, non so, penso che accogliere le persone con un sorriso, chiedere come stanno, magari la volta dopo ricordarti che puoi di chiedere come è andata, penso sia una parte veramente molto bella del mio lavoro. Quindi il primo elemento è l'ascolto. L'ascolto e l'attenzione, sicuramente. L'attenzione a quello che ti dicono, anche delle volte anche pesante, perché non è che trovi sempre le persone lì dolci che ti... delle volte trovi anche persone che ti stufano, che ti stressano, che ti chiedono sempre le stesse cose, però insomma, sono cose... Parlando con Giorgia, non so, le avevo proposto questa ricerca di questa ipotetica, di questa intervista e di un'ipotetica linea che poteva congiungere il tuo attivismo con la professione, con il tema della cura. La cura della società, la cura dell'individuo, che sono due temi che fondamentalmente hai percorso nella tua esperienza, insomma. Magari senza rendermene conto, però col senno di poi penso di sì, in un certo senso, insomma, anche se magari all'inizio è tutto più goliardico, quando sei giovane, insomma, è chiaro che non sei attento a tutto, resti un po' più in superficie, dopo mano a mano che diventi adulto, maturi esperienze, maturi dolori, maturi gioie, cioè tutto quello che fa il bagaglio di una vita, insomma, quindi diventi anche più attento a tante sfaccettature, insomma, sicuramente. Diventi anche più consapevole di quello che stai facendo e sì, dell'impatto che dai anche sulla comunità, penso. Sicuramente, dopo magari la risposta te la danno gli altri, non è neanche una cosa che tu fai per ottenere questo risultato, perché lo fai magari inconsciamente, perché fa parte di te, lo fai senza fatica, perché fa parte un po' del tuo carattere, però la risposta che ti danno gli altri conferma che a loro fa piacere, insomma, che loro apprezzano questo modo, insomma, di agire, ecco. Quindi come potresti intendere la cura all'interno della tua esperienza? Capisco che è un tema astratto, ma contemporaneamente è molto concreto. È un percorso. Beh, aver cura è avere interesse. Avere interesse, avere ascoltare, come dicevi te, perché aver cura è proprio questo. E non è solo accudire, è proprio interessarsi anche proprio con la parola, se non fisicamente, ascoltare. Ti dico, delle volte magari lo fai anche in modo superficiale, però dopo ti ritorna e magari vai anche a correggere certe cose che hai già detto o fatto, certi atteggiamenti. Ho domandato anche scusa più di una volta, È chiaro che se all'inizio magari sei preso dai grandi temi, non so se questo è un po' quello che ti interessa sapere, però quando hai 18-20 anni hai i tuoi sogni, no? Io pensavo addirittura di partire per l'Africa, ero convinta di partire per l'Africa o comunque per per il terzo mondo, perché sentivo veramente la voglia di andare a fare qualcosa, a fare. E dopo invece l'esperienza del Brasile mi ha portato a conoscere delle persone veramente che mi hanno fatto capire che il fare arriva fino a un certo punto, che bisogna prima ascoltare, che bisogna prima sapere cosa la gente ha bisogno. Non è che puoi andare, anche perché dopo fai, ma non cambi nulla, hai capito? Non porti dei cambiamenti, mentre ascoltare, riflettere, ascoltare cosa ha bisogno la gente, dopo ti porta a un vero atteggiamento di che poi quel magari fai molto meno, però è molto più azzeccato, molto più orientato verso qualcosa di corretto e che fa bene alle persone, insomma, ecco. Io mi ricordo Don Francesco, la sua frase era: i primi 3 anni, quando sono arrivato in Brasile, pensavo di capovolgere il Brasile e invece non ho fatto niente, non sono riuscito a combinare niente. E dopo mi sono messo in ascolto e a distanza di 6-7 anni ho capito quello che era il mio compito. Quindi c'è un prete che è lì giorno e notte in quella realtà, hai capito? Quindi anche queste esperienze qua ti maturano, ti fanno capire cosa vuol dire la cura delle persone, la cura del tuo lavoro, la cura, cioè, la cura anche di te stesso, di portare a frutto i talenti che hai, i desideri che hai dentro e quello che ti senti, insomma, per cercare di completare la persona che sei, nel bene e nel male. Non è che voglio infiorettare, che ripeto, errori ne fanno tutti, ne ho fatti tanti, di alcuni anche sono anche riuscita a rendermene conto e chiedere scusa, di altri non lo so. Mi viene in mente che 15 anni fa, quando ho iniziato il festival a Castelbesino, quasi per gioco abbiamo iniziato a intervistare persone che avevano a che fare con Castelbesino, no? E quindi abbiamo iniziato a usare questo registratore audio e iniziare ad ascoltare queste persone. Poi ci siamo resi conto, io e Sara Maino, che ma perché le ascoltiamo solo noi? Dai, che portiamo i bambini? E 10 anni fa, nel 2009, abbiamo iniziato a portare i bambini e tuttora li portiamo a imparare ad ascoltare. E lì credo che è stata anche la mia svolta personale, in cui mi sono sentito veramente utile, del fatto di riuscire a regalare a così tanti bambini questo tipo di esperienza qua, che era la cultura dell'ascolto. Come una piccola medicina per la comunità, dove abbiamo pensato che questi bambini racconteranno ad altri quella storia lì e che forse può scaturire un'idea di comunità. Ecco perché mi piaceva, quando hai ripetuto tante volte, questa cosa dell'ascolto. Ecco, e anche l'ascolto che si relaziona a quello che hai detto anche prima, di fare gruppo, di fare rete, ascoltare, sì, è importantissimo. Sì. Cioè, io penso che adesso aver ascoltato e ascoltare quello che hai raccontato, le esperienze che hai raccontato, sia anche utile a me e ai giovani come me, in modo tale da poi creare una sorta di continuità. Sì, che l'ascolto secondo me serve anche a quello. Certo, penso che un gruppo alle spalle è importante. Certo, è importante. Perché ti dà forza anche, non è solo per il confronto, ti senti anche così coadiuvato nell'azione, nelle idee. Cioè, penso che anche l'attività che abbiamo avuto a livello comunale, cioè, noi ci trovavamo quasi tutte le settimane, capito, per confrontarci su problemi, siamo usciti per fare le interrogazioni, per fare comunque delle serate, perché abbiamo fatto diverse serate, c'erano i classici referendum, ci sono stati quelli del come si chiama? Beh, quello del no, del divorzio, dell'aborto. Dell'aborto qua in questa sala, avevamo fatto arrivare Don Wiesentainer. Poi avevamo fatto arrivare un padre valdese, un prete valdese, e poi abbiamo fatto venire un docente un docente delle ITI, adesso mi sfugge il nome, comunque il laico e i due aspetti religiosi, però avevamo qua la sala piena, cioè veramente, cioè abbiamo... Erano anni che la gente si spostava, perché adesso è difficile far uscire le persone di casa, coinvolgerli, però a quei tempi là facevamo anche le rassegne delle commedie, perché a quei tempi non lo faceva l'amministrazione pubblica, l'avevamo fatta noi, tutti gli anni facevamo la rassegna, riuscivamo a mettere insieme dei soldini per accaparrarci, una la facevamo noi e poi invitavamo altre due o tre compagnie ad avere quattro sabati d'estate, mi ricordo l'avevamo invitato l'Andrea Castelli che non voleva neanche recitare a quei tempi, aveva fatto solo il sol, pioveva che Dio la mandava, non sapevamo come fare, l'oratorio era inagibile perché non era stato ancora ristrutturato, avevamo messo un telone di quelli del camion sopra le sedie e quando è arrivato non voleva recitare perché aveva paura, non me la sento, abbiamo detto dai per favore, non possiamo, cioè... devi fare qualcosa, e insomma ha ceduto alla pressione di sti quattro disgraziati, ecco. Poi quando è tornato quest'anno qua in biblioteca l'abbiamo ricordato, si è messo a ridere, certo, però per intenderci il gruppo è importante, certo. Il gruppo è importante, dopo è chiaro che il gruppo che è anche omogeneo che comunque principi li ha simili, rimane più coeso, insomma, se devi, certo, continuare a lottare, insomma, ecco, dopo le differenze c'erano anche fra di noi, non so, so che hai parlato col Marco Calavin, in questa sede qua l'avevamo eletto presidente delle ACLI, assente, perché non c'era nessuno che lo voleva fare, nessuno più, e noi abbiamo eletto il Marco che non era neanche presente. E gliel'abbiamo telefonato il giorno dopo, guarda che ti abbiamo eletto presidente. Non era un cattolico, diciamo. No. Beh, però c'era molto rispetto. Allora, a quei tempi tieni presente che stiamo parlando degli anni 70-80, quindi non è come adesso. Comunque noi a messa ci si andava, un po' perché ci credevi, un po' perché era norma, a messa ci si andava. Poi Don Flavio riusciva anche, che so, lui ci faceva la messa del sabato se la domenica avevamo un'attività, perché a quei tempi non c'era la messa del sabato. Allora era carino, ci faceva la messa il sabato sera, così siamo a posto. Ecco, quindi dopo vabbè, eravamo anche giovani, adesso chiaro a 20 anni decidono già se andare in chiesa o no, a quei tempi ci andavi. Non ti ponevi neanche certi... Ci andavi e basta, era una consuetudine, lo facevano tutti, capito? E dopo, adesso, magari sono molto più critica adesso, vado, nonostante sia ancora comunque una persona che mi ritengo di fede, però sono molto più critica, vado a scegliermi i preti che voglio io, vado ad ascoltarmi le messe dove voglio io, capito? A quei tempi, è vero, avevamo qua una persona che... ci appagava, quindi non siamo stati neanche stimolati a cercare da altre parti, però a quei tempi era consuetudine comunque frequentare la chiesa. E cosa puoi parlare, cosa puoi dirci di questo ipotetico futuro, di questi 40 anni? Questi prossimi 40 anni? No, fra 40 anni. Sì. Ah, addirittura proprio il salto 40 fra 40 anni. Mi fate pena. La vedi così... Allora, guarda, no. Che è quello che probabilmente diceva mio nonno negli sì, anni 70. Hai ragione. Allora, devo essere sincera, ci sono tante persone eccezionali, tanti ragazzi in gamba e questo mi fa ben sperare. Chiaro, magari in modalità che io non conosco e che non riuscirò mai a vedere, perché basta vedere negli ultimi 10 anni come sono cambiate le modalità di espressione, di... Certo, a me al momento vedere tutti questi ragazzi che sono sempre lì, che messaggiano, mi fa una certa impressione, però se questo è il loro modo di dialogare, purché ci sia un dialogo... Come te la immagini 40 anni? Oltre a queste cose che dici, non mi piace questa moda, non mi piaccia. Comunque abbiamo visto fuori un bel gruppo di ragazze, abbiamo un barista estremamente gentile, giovane. Quindi gli spunti ci sono. Certo. Mi ricordo mio nonno da piccolo, mi diceva endovolenare con la vostra gioventù. Certo. E io amo profondamente la storia, non solo locale, ma la sintesi, la filosofia storica mi piace un sacco. La domanda è cosa auguri allora, ecco? Cosa puoi augurare? Allora, parto dalla mia esperienza. Io ho due figli, uno di 28 e uno di 25 anni. È chiaro che ho cercato di far passare a loro i messaggi che per me erano importanti. Su alcune cose mi hanno anche dato soddisfazione, sulla Chiesa no. Ma che so, sono tutti e due, fanno parte tutti e due di Deina, l'associazione per il promemoria Auschwitz. Sono due tutor che hanno perciò accompagnato giovani ragazzi, sono andati loro come giovani studenti e poi sono entrati nel gruppo e fanno i tutor per questi viaggi della memoria. Quindi questo per me mi riscalda il cuore. E li vedo comunque che trattano bene le persone, vedo che sono comunque interessati agli argomenti che io magari metto in discussione, e questo mi fa piacere, insomma. Massimiliano è appena rientrato dal Mozambico, dove è stato per 3 mesi con una ONG, quindi insomma mi fa piacere, e questo, ti dico, mi fa pensare che magari i principi fra 40 anni potranno essere ancora quelli. Non so dirti come verranno espressi, come verranno esternati, però sono convinta che la persona umana resterà una persona umana. Magari, non so, faranno più fatica, perché forse per noi è stato più comodo perché magari una società più povera, una società che... Adesso sai, vabbè, che se andiamo avanti, diventa difficilissimo, perché sì. L'economia, come sarà l'economia? Sarà un'economia che va avanti, un'economia che si ferma, un'economia che regredisce? Come potrai dire fra 40 anni? Magari saranno più poveri di noi o più poveri dei miei genitori. Fra 40 anni è un tempo lungo. E sicuramente se l'uomo rimane uomo, c'è e farà del bene. Ma sì, un po' era quello che diceva anche mio papà, che alla fine si rimane uomini, In mezzo nella storia. Esatto. Nella storia possono cambiare le cose, ma noi siamo sempre comunque persone, uomini e persone. Certo, uomo è proprio nella completezza del termine, insomma, esatto. Sì. Esatto. Cioè, anche se adesso, come dicevi, comunque è vero un po', Davide, che noi siamo comunque... Cioè noi, tanti giovani stanno comunque sempre sui social, c'è meno l'aspetto del dialogo, però sì, ci sto arrivando, però comunque è vero questo, però comunque è anche vero che, per dire, quest'anno, parlavi prima di amministrazione comunale, che sei entrata nell'amministrazione comunale, quest'anno nei 3 comuni ho visto tanti giovani impegnarsi nell'amministrazioni comunali, e questo fa ben sperare. Esatto. Sicuramente. No, sono d'accordo. Sono le modalità che fra 40 anni è impensabile, non riesci a immaginare. Certo, modalità. Non si può sapere, no. Il mondo è in evoluzione continua, si può sapere. Un'evoluzione velocissima, certo, tra l'altro. Esatto. Gli incontri chiamati alla Cavalleria 2060, è ovvio che è provocatorio il tema. Certo. Va bene, se tu, Giorgio, non hai, se hai delle domande, se ti vengono in mente qualcosa, ci sono parecchi temi dentro, no? Sì, c'è un sacco di... Ci sono un sacco di temi che mi hanno proprio colpito. Quando hai iniziato dicendo che comunque hai un po' l'accudimento nel DNA, è una cosa veramente che mi ha colpito tantissimo, perché cioè, hai fatto quello per tutta la vita praticamente. Sì, senza esserne morta. Intendo, quando io andavo all'asilo, il mio fratello subito dopo di me, ha 2 anni meno di me, a 5 anni, a quei tempi si usava, la sorella maggiore prendeva per mano a 5 anni il fratellino di 3 anni e andavi all'asilo insieme. Beh, certo. Era così. Certo. E gli mettevi il grembiulino, gli mettevi le pantofoline, poi ti mettevi le tue e entravi nell'aula. Il paese era a misura di bambino, perché non è che non c'erano tante macchine. Quando io ho fatto l'asilo non c'erano neanche i bolognini qua a Besnello, perché li ha messi quando io ho fatto le elementari, quindi non so se ero in terza o in quarta, per dire. Però è sempre stato così. Vabbè, certo. E un'altra cosa che mi ha... Non so, posso fare ancora una domanda? Non so come... Un'altra cosa che mi ha colpito è quando hai parlato dell'ascolto. Però, cioè, penso che... Poi non so se è giusto, ma penso che la cosa è essenziale e difficile sia anche provare ad ascoltare, a percepire il non detto, no? Anche coi clienti in farmacia. Mm-hmm. Loro magari non ti sanno dire che situazione hanno e di cosa hanno bisogno. Non pensi che sia anche fondamentale ascoltare il non e percepire quello che rimane di non detto, che a volte è più delle parole? Questa è l'esperienza che ti permette di capirlo, certo, Giorgia. Certo. Perché quando sei alle prime armi, certe sfumature non riesci a capirle. Dopo, ripeto, te che avanzi negli anni e quindi cominci ad avere il tuo bagaglio di esperienze positive e negative, diventi anche più sensibile nei confronti di certi atteggiamenti, del non detto, come dicevi te, e te ne accorgi di più quando hai una certa età, che non da giovane, insomma. Da giovane passi via un pochino, un po' più, non voglio dire in modo più superficiale, però la vita è talmente bella per te, talmente stai bene, sei sempre prestante, non hai mai mal di testa, hai capito? Mm-hmm. Non sai cosa vuol dire avere un disturbo o aver... Grazie a Dio, insomma, a me è successo così, insomma, che non ho avuto grossi problemi. E quindi fai fatica delle volte a identificarti con una persona che ha problemi. Mentre dopo, un po' per esperienze anche dolori che ci sono stati anche nella famiglia, quindi insomma... acquisti un bagaglio di esperienze che ti porta ad avere anche più sensibilità nei confronti delle persone e di riuscire a intuire molto meglio questo che tu dici non detto. Certo.